Hashtag Autotrasporti. Appena insediato, il neo ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio sta lavorando sul programma di infrastrutture inserito nel DEF che verrà varato venerdì dal governo. Subito dopo si metterà al lavoro, fanno sapere dal ministero a Radio 24, su tutti i temi di settore, compreso l'autotrasporto, non prima di aver sentito le rappresentanze. E tra i primi a rivolgersi a lui e a chiedere un incontro ci sono stati in effetti proprio i rappresentanti del mondo dell'autotrasporto. A partire da Unatras, varie organizzazioni gli hanno scritto per sollecitare attenzioni e provvedimenti affinché il rilancio del settore diventi una priorità e non oggetto di nuovi tagli annunciati da un altro capitolo della Spending Review. Nel frattempo ci sono dati in controluce sui quali si affollano le prospettive e i timori di un comparto che da anni arranca. Se la ricerca di Confetra ha indicato una ripresa del settore nel corso del 2014, in particolare durante il secondo semestre in termini di merce trasportata e fatturato, lo studio commissionato da Unrae a GPA Italia fotografa con nitidezza l'impatto della crisi sul settore tra il 2008 e il 2013. Un bollettino di guerra, il segno meno ovunque. Quasi 200.000 posti di lavoro cancellati, pari a 90 volte i dipendenti di Alitalia. Il trasporto di merce su strada calato del 35%, consumato il 37% di carburante in meno. Quasi 2.000 flotte hanno cessato di esistere e lo Stato stesso ha pagato pesantemente il suo conto, solo per le accise spazzati via 10 miliardi di introiti. Di qui la richiesta a gran voce delle associazioni del mondo dell'autotrasporto affinché il governo prenda atto che i segnali di ripresa non possono venire ostacolati dall'inversione di rotta rispetto a quanto promesso dalla legge di stabilità. 250 milioni di contributi a favore del settore, sconti sulle accise. Non è solo questione di denaro, ma di leggi e norme che ancora latitano, a partire da una regolamentazione che intervenga per risolvere il problema del cosiddetto dumping sociale, cioè le forme di concorrenza sleale praticate dagli operatori esteri che, grazie ad un costo del lavoro più ridotto ed una fiscalità più favorevole, di fatto alterano il mercato. Di qui la richiesta affinché l'Italia imiti presto altri paesi, per esempio Spagna e Germania, che già si sono mossi per tutelare le aziende nazionali. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.